Il punto di Stefano Folli. Oggi, quando il Senato respingerà la mozione di sfiducia contro il ministro dell'Interno, si chiuderà l'affare Kazakistan sotto il profilo parlamentare, quello che minacciava la stabilità del governo. In nome del realismo, dell'impossibilità di aprire adesso una crisi gravissima, questa è l'unica soluzione possibile, per quanto amara. Ieri Napolitano è stato molto chiaro e al capo dello Stato il realismo non fa difetto. Rimane aperto un altro capitolo, il rapporto con il Kazakistan. Questo ambasciatore che ha spadroneggiato nei palazzi romani e ha fatto il bello e il cattivo tempo negli uffici della polizia dovrà pagare per i suoi comportamenti. C'è da augurarsi che almeno su questo le nostre autorità sappiano ritrovare la dignità. Certi personaggi dovrebbero essere allontanati dall'Italia, dove hanno abusato del loro ruolo e purtroppo anche della nostra debolezza.